24 mattino di Alessandro Milan. Siamo qui alle 7:22 minuti. Buongiorno cari ascoltatori, saluto Carmelo Lauricella in regia, tornerà anche il nostro alpino Peter Bescapè la settimana prossima. Seguiteci anche su Twitter se volete, @AlinoMilan, questo è il mio account, @24mattino la trasmissione. Oggi avremo ospite il sottosegretario agli esteri Staffan de Mistura. Ci ricordiamo che ci sono due militari in India detenuti, c'è anche poi un italiano turista in India, ma ce ne sono turista ostaggio in India, e poi ci sono ovviamente anche altri italiani in difficoltà, ma insomma parleremo di questo con il sottosegretario agli esteri. Poi parleremo dell'articolo 18 e degli statali dipendenti pubblici, perché raccogliamo le proteste ma anche le difese di chi dice ma un'eventuale riforma dovrebbe applicarsi anche ai dipendenti pubblici. Il ministro Patrone Griffi dice di no. Perché? Io provocatoriamente gli ho detto su Twitter: cosa sono, panda, dei panda da proteggere? In realtà ne discuteremo con molta pacatezza dalle 8:30. Ora vediamo che cosa ci propongono i giornali in edicola. Questo giovedì 29 marzo, intanto uno sguardo ai titoli, il Sole 24 Ore, fondi, azioni, conti correnti, ecco come cambiano le tasse, questo è il titolo di apertura. E poi la vicenda Monti e partiti, per molti quotidiani, Corriere della Sera, tensione tra Monti e partiti, per Repubblica, lavoro e giustizia, le mosse di Monti, per l'Unità, Mal d'Oriente, attacca Monti, attacca i partiti, il Messaggero, Monti a fondo contro i partiti. E poi ci sono altre aperture, il Giornale a fuoco per le tasse, la vicenda drammatica di un artigiano a Bologna che si è dato fuoco. Giudici a puttane, questo invece è il titolo di Libero, la vicenda da cui partiremo tra poco. Lezione spagnola, questo è il manifesto in prima pagina, e non è il commento alla partita Milan-Barcellona, ma la Spagna che si mobilita contro la riforma del lavoro e per i diritti. Il Papa vede Castro, più libertà, così titola La Stampa, mentre il Fatto Quotidiano, 2 miliardi di consulenze, ecco dove buttano i soldi. E allora il titolo di Libero, giudici a puttane, in prima pagina, in che mani siamo? Racconta la storia del giudice GIP di Palmi in Calabria, Giancarlo Giusti, 45 anni, che ieri è stato arrestato. Il pool antimafia di Milano del PM Boccassini Storari Dolci ha ottenuto l'arresto. L'ipotesi è quella di corruzione. Tra il 2008 e il 2010 sarebbe fatto pagare il giudice Giusti diversi viaggi, soggiorno gratis a Milano per un totale di 70.000 euro a base di viaggi in hotel di lusso, aerei, prestazioni sessuali. Ed eccolo lì il titolo. Beh, io partirei... Ci sono due aspetti. Il primo è quello del diario, teneva tutto in un diario questo giudice Giusti. Sentite, il diario è pubblicato a pagina 2 di Libero, ma lo trovate un po' su tutti i giornali. Serata di venerdì pazzesca tra donne e vino, notte di amore con Natasha, ubriachi cotti. Questo è il 21 settembre 2008. E poi il 10 ottobre, due giorni a Milano tra donne, amore, vino e affari, due belle notti con Elisabetta, dolce ragazza russa. E ancora, settimana scorsa a Milano, serata indimenticabile con Anna, amore bellissimo. Mercoledì e giovedì a Milano, una notte di amore con Elisabetta, dolce, bella. Martedì, botta di vita, con escort nera, buona, massimo prezzo finora pagato, comunque ottimo amore. Sentite, usa sempre la terminologia amore, amore. Giudice Giusti, amore. Vabbè, uno si può raccontare quello che vuole, eh. E poi finisce il 30 agosto 2010. A proposito, Maria mi stanca, sono il suo uomo e allora deve comandare e sindacare la mia vita. Ma un giudice che, stando a questo diario, frequentava escort, parlando di amore. Però la vicenda che più inquieta, questa è una vicenda, se volete, anche non personale, visto che l'accusa è che queste escort venivano pagate da un boss, e quindi poi questo giudice, secondo l'accusa, era a disposizione di questo boss dell''Ndrangheta. Ma la cosa, secondo me, più inquietante ancora è ciò che Luigi Ferrarella, a pagina 27 del Corriere della Sera, racconta sotto il titolo Escort dai boss al giudice calabrese promosso dal CSM. Promosso dal CSM. La meraviglia è questa: Giusti era finito sotto ispezione, procedimento disciplinare per aver assegnato nel 2004 immobili a una società di cui era socio il suocero e per aver dato su 945 incarichi in 5 anni un terzo delle perizie a 4 professionisti, all'architetto marito della socia del suocero. Quando gliel'hanno chiesto, ha detto: non sapevo che la società fosse di mio suocero. E osserva il giudice che GIP Gennari: sfugge all'umana comprensione come sia potuta credere alla buona fede di Giusti sulla base delle dichiarazioni fatte. Eppure, nonostante ciò, il 6 luglio 2007 il CSM assolve Giusti nel procedimento disciplinare perché la buona fede riconosciuta nel tentativo di riorganizzare un ufficio ereditato in condizioni disastrose assume un significato determinante ai fini della valutazione del disvalore disciplinare delle irregolarità rilevabili nella sua condotta. Insomma, irregolarità nella condotta, ma la buona fede, e dunque assolto. Passano 3 anni. Giusti va in terza valutazione di professionalità, il vecchio passaggio a magistrato di corte d'appello. Come non accade mai, il Consiglio giudiziario di Reggio Calabria dà un parere severo, non positivo. Il CSM che fa? A sorpresa, ribalta il parere negativo del Consiglio giudiziario locale e a maggioranza promuove ugualmente Giusti. Con motivazioni del tipo: non si possono dimenticare il suo buon operato nell'attività del magistrato, si è trovato solo nel gestire le criticità. Insomma, Luigi Ferrarella racconta di come incredibilmente, nonostante i pareri negativi, il CSM abbia sempre ribaltato, il CSM vale a dire l'organo di autogoverno dei giudici, abbia promosso e fatto passare in cavalleria tutte le criticità, per dire così, di questo magistrato che ieri è stato arrestato. L'accusa: corrotto dall''ndrangheta con sesso e viaggi di lusso. A proposito di giustizia, voglio andare sulla Stampa, pagina 18. Vi ricordate la vicenda di Graziano Mesina? Uno dei... si è preso 3 ergastoli, credo. Ex Primula Rossa del Supramonte, fuorilegge che ha tormentato generazioni di poliziotti e carabinieri, così Nicola Pinna lo descrive sulla Stampa. L'ex bandito Grazianeddu ora chiede gli arretrati allo Stato. La vicenda è questa: dopo avere saldato il debito con la giustizia, ora chiede di avere gli stipendi arretrati, perché nei lunghissimi anni passati dietro le sbarre, prima di ottenere la grazia dal capo dello Stato, ha lavorato e non è stato pagato regolarmente. La cifra quant'è è ancora da calcolare con precisione, ma dalla sua, scrive la Stampa, Grazianeddu ha già una sentenza del Tribunale di Cagliari, perché già un altro detenuto in precedenza aveva fatto lo stesso tipo di causa. Si tratta di Giovanni Carta, che per anni ha lavorato da falegname in carcere e ha detto: devo essere ora pagato non come mi pagava l'amministrazione penitenziaria, con uno stipendio non adeguato a ciò che spetterebbe ogni falegname. E questo ex detenuto ha ottenuto poi 12.000 euro, non tantissimo come arretrati, ma sta di fatto che ora Graziano Mesina chiede, dopo essere stato liberato nel 2004, di essere pagato per tutti gli anni di lavoro svolti in carcere. Trovate tutto a pagina 18 della Stampa. Allora, il viaggio del premier Mario Monti in Asia lascia degli strascichi di polemiche a distanza per i chilometri che separano Roma da Seul, Tokyo, insomma tutti i luoghi che ha toccato Mario Monti, ma le polemiche sono tra i partiti e Mario Monti. Noi ne abbiamo parlato ieri mattina, complice il fuso orario, le dichiarazioni di Monti sono arrivate più o meno a quest'ora, 24 ore fa, il fatto che abbia detto il governo ha il consenso, i partiti no, questo scontro frontale che anche Stefano Folli su Sole 24 Ore etichetta così, sono confessioni di un impolitico o forse la mossa di un politico nascente. Sta di fatto che Bersani è quello che ha reagito più duramente: attenzione, o stiamo uniti o finisce a cazzotti, cazzotti per tutti, cazzotti per i politici. politici, ma cazzotti anche per i tecnici. Secondo, è interessante perché visto che riparte questa lotta governo partiti, ripartono anche e riprendono fiato i cosiddetti retroscenisti della stampa. Francesco Verderami scrive retroscena sul Corriere della Sera, il racconto è questo: il PD che sembra tirato in mezzo da queste polemiche, il Popolo della Libertà che cerca di stare un po' fuori dal ring, secondo quello che sono i racconti Monti ci sarebbe stato molto male e se la sarebbe presa, raccontano anche su Repubblica, e tra poco lo vedremo, per il fatto che Bersani ha detto non ha mantenuto la parola. Ma Francesco Verderami invece sul Corriere della Sera dice che Monti è pronto alla mediazione sull'articolo 18, nel senso che è pronto a discutere una diversa formulazione della norma, è disposto ad accettare una soluzione alternativa che sia confacente, ma è tentato da che cosa? Di porre la fiducia a un disegno di legge sulla riforma del mercato del lavoro, e a quel punto ognuno ne trarrebbe le conseguenze. Come dire, se si va allo scontro di forza, io metto la fiducia, il Parlamento vota e poi chi vivrà vedrà. Tra l'altro, infatti, viene intercettata e dal Corriere a pagina 2 viene messa questa frase di Monti: che succederà dopo questo governo? Gli hanno chiesto qualcuno in Asia. Sarà fantastico. Per me. Col suo solito aplomb, ma anche con quella sua ironia britannica, sempre molto fredda, con le sue freddure, sarà fantastico per me. Dopo il governo Monti, che vorrà dire? Che torna al suo lavoro, che avrà il gradimento degli italiani? Non lo so. Anche questo è da interpretare. Sta di fatto che per il retroscena della stampa, pagina 3, con Amedeola Mattina e Carlo Bertini, Bersani è furibondo e sarebbe stato Berlusconi a stopparlo, un Berlusconi che dice è vero, quello che dice Monti è che i partiti così come si presentano oggi hanno poco appeal, il più credibile agli occhi dei cittadini è proprio Monti, questa sarebbe la frase detta da Berlusconi, e dunque non bisogna attaccarlo più di tanto. Si scatenano anche o i vignettisti o comunque coloro che fanno le rubriche di ironia, ironiche, Iena sulla stampa, sondaggi, il governo ha consenso alto, i partiti no, l'ha detto ieri Silvio Monti. Mentre Bobo sull'Unità, pagina 3, nella vignetta di Staino, la politica è come il sesso, se la scopri da vecchio ti dà la testa e sono guai grossi. Questa è la riflessione di Bobo. Sta di fatto che invece per Libero si crede il messia, ma così Mario finirà per affondare. Questa è l'analisi di Franco Bechis. Il fatto è questo. Mario Monti e i partiti stanno vivendo un momento di, come dire, un po' di tensione, per usare un eufemismo, sullo sfondo sempre la riforma dell'articolo 18, che è il tema di cui ci occuperemo per quel che riguarda la riforma del mercato del lavoro, volevo dire, e di cui l'articolo 18 è una parte, e ne ci occuperemo di quella che è la diatriba sul fatto se debba applicarsi anche agli statali, ai dipendenti pubblici oppure no. Questo lo affronteremo dalle 8:30. Intanto c'è il tema delle tasse. Oggi il Sole 24 Ore apre su fondi, azioni, conti correnti. Ecco come cambiano le tasse, tutto su una circolare interpretativa. I dettagli li trovate a pagina 3 su questa circolare, che a quasi tre mesi dall'entrata in vigore delle nuove aliquote unificate per le rendite finanziarie da parte dell'Agenzia delle Entrate, c'è stata la pubblicazione di chiarimenti sul nuovo regime di tassazione, e tutti i dettagli appunto li trovate a pagina 3. Anche se il tema delle tasse viene catalizzato da un terribile fatto di cronaca che è avvenuto ieri a Bologna. Tutti i giornali ne parlano, una vicenda che è finita in prima pagina, come giusto che sia, inseguito dal fisco si dà fuoco. È la storia di un artigiano di Ozzano nell'Emilia, vicino a Bologna, 58 anni, appunto inseguito dal fisco per una storia di tasse contestate dall'Agenzia delle Entrate. Ieri, proprio nel giorno in cui doveva esserci la prima udienza, comunque il primo colloquio, all'Agenzia delle Entrate, è andato davanti alla sede dell'Agenzia delle Entrate a Bologna e si è chiuso nella macchina e si è dato fuoco, per l'appunto. È in gravissime condizioni, ha lasciato alcuni biglietti che, racconta il Corriere della Sera con Francesco Alberti a pagina 11, non lasciano spazio a equivoci del perché del suo gesto. Si sentiva braccato, d'altronde, racconta Alberti, Giuseppe il muratore, braccato dal fisco che lo inseguiva per una serie di mancati pagamenti relativi al 2007, 104.000 euro tra tributi non pagati e sanzioni. Alla fine una brutta storia, Giuseppe si era dichiarato innocente, ieri mattina nelle stesse ore in cui si è dato fuoco avrebbe dovuto comparire in tribunale per la prima udienza anche per l'accusa di aver emesso due fatture false per un valore di 30.000 euro. Ha lasciato appunto alcuni biglietti. Nel primo mi chiamo GC, ho sempre pagato le tasse, poco ma sempre. Quello che ho fatto l'ho sempre fatto in buona fede, lasciate in pace mia moglie, lei è una brava donna, chiedo perdono anche a voi in fede. E ancora un biglietto ai parenti, finalmente vi vengo a trovare lassù, e alla moglie Tiziana, caro amore, sono qui che piango, stamattina sono uscito presto, volevo salutarti, ma dormivi così bene, ho avuto paura di svegliarti, oggi è una brutta giornata, adesso tu diventerai zia, spero che vada tutto bene, ti chiedo perdono, ti voglio tanto bene. Insomma, una vicenda drammatica. Vittorio Feltri in prima pagina del giornale, il titolo del giornale è questo: a fuoco per le tasse. Scrive nel suo editoriale: non era mai successo in Italia, suicidarsi dandosi fuoco non era roba di casa nostra, adesso lo è. Ci volevano le tasse per indurre un poveraccio imprenditorello di 58 anni a imboccare questa strada, andar via da questo mondo dove il fisco è diventato una persecuzione per chi lo paga, un Eldorado per chi lo evade. L'uomo non ha scelto a caso il luogo in cui tentare di uccidersi. Ora è gravissimo all'ospedale di Parma. Il motivo della disperata risoluzione consiste in un contenzioso tributario che angosciava il muratore da tempo e dal quale non riusciva a venirne fuori. L'Agenzia delle Entrate farà sicuramente il suo dovere, applicherà leggi e regolamenti. Forse però un pizzico di umanità sarebbe utile a evitare estreme conseguenze. E insomma, Vittorio Feltri scrive: «I professori smettano di strozzarci con le tasse». Ottima l'idea di punire gli evasori, di condurli a comportamenti di cittadini responsabili, ma se non è accompagnata dalla pietà per chi invece paga e paga troppo, sino a svenarsi e a perire, non si avrà mai un risultato soddisfacente per gli individui e la collettività. Non è con la garrota delle tasse che si rivitalizza il paese, semmai si strozza. Questo Vittorio Feltri in prima pagina del giornale. Certo, poi uno legge questa storia drammatica e incredibile che ha spinto quest'uomo nella disperazione a darsi fuoco. Poi legge l'inchiesta che Panorama pubblica oggi in prima pagina. Il titolo è: se il nuovo articolo 18 fosse applicato ai politici, molti di loro sarebbero da licenziare. Su quanto lavorano, per usare un mega eufemismo, nelle regioni, nei consigli regionali. Oppure uno legge quanto spendono in consulenze i comuni, e certificato dalla Corte dei Conti e che oggi è pubblicato dal Fatto Quotidiano a pagina 2 e 3, che dice: vabbè, qui mi cascano le braccia, per non dire altro. E allora uno legge l'inchiesta di Panorama, ve la segnalo, Antonio Rossitto, a pagina 36 e seguenti di Panorama: in 3 mesi i consiglieri regionali hanno lavorato da 4 a 18 giorni e guadagnato fino a 60.000 euro lordi. Regioni fannullone, consiglieri d'oro arrivano a guadagnare 82 euro al minuto. Sono le 7:48 e 34 secondi, tra un minuto avrai 82 euro in tasca, Carmelo Lauricella, forse lordi, quindi accontentati. Oppure uno legge quello che il Fatto Quotidiano pubblica a pagina 2 e 3 sulle consulenze, la Corte dei Conti: ci sono comuni, allora le consulenze costano 2 miliardi l'anno, i comuni hanno speso 555 milioni in consulenze. In questo elenco, tra l'altro, di imprescindibili attività: indagini per censire i piccioni, monitoraggio per le mosche che aggrediscono le olive, per l'insetto che distrugge le viti, corsi per estetica e accoglienza, esperti di risparmio energetico che consigliano di spegnere le luci di casa, sedute di ginnastica cinese, mediatori culturali arabi, calendari per la polizia municipale, loghi per i parchi cittadini. Ci sono, per esempio, a Benevento c'è un meteorologo municipale per sapere nella contrada più remota di Benevento che tempo farà domani, evidentemente. A Ginosa, la comunicazione, Ginosa 20.000 abitanti, la comunicazione del comune costa 100.000 euro, 8 contratti, 8 contrattini per non scontentare nessuno. Io vorrei conoscere il meteorologo di Benevento, vorrei fargli fare le previsioni del tempo di Benevento tutti i giorni qui a Radio 24. Lancio questa proposta al nostro direttore Fabio Tamburini. Non lo paghiamo, è già pagato dal comune di Benevento, lo faccia gratuitamente ovviamente. In ogni caso, ecco, uno legge queste storie e poi giustamente sul Sole 24 Ore oggi si torna sulla vicenda degli esodati, queste persone, un esercito di persone non quantificate, i sindacati dicono 350.000, forse 250.000, 200.000, non si sa, in ogni caso, e sono queste persone che hanno fatto per un contenzioso, insomma per le crisi aziendali, hanno fatto un accordo, sono andati in prepensionamento, poi nel frattempo sono cambiate le regole col ministro Fornero, il governo Monti, dunque si ritroveranno per un tot di anni, dipende da persona a persona, senza stipendio e senza pensione. Il presidente della Repubblica Napolitano, come scrive il Sole 24 Ore a pagina 8, con Davide Colombo e Giorgio Pogliotti, dice: sugli esodati c'è una soluzione allo studio. Dunque c'è una soluzione in arrivo. E beh, certo, speriamo, perché è una situazione davvero paradossale. Persone che si sono fidate, hanno fatto un accordo e ora si ritrovano in una situazione di limbo difficilissimo dal punto di vista economico. La vicenda Emilio Fede invece si è conclusa in modo... No, ieri Michele Serra chiedeva la prossima puntata, e la puntata forse definitiva, sipario, game over, è il licenziamento, cioè nel senso licenziamento, la risoluzione del contratto. Mediaset licenzia Emilio Fede, trattativa andata male, 30 anni di TV e di era televisiva raccontati da Aldo Grasso a pagina 31, ve lo segnalo perché Emilio Fede è stato un pezzo della storia della televisione e lo è tuttora. Beh, Antonello Caporale su Repubblica lo intervista, chiama Emilio Fede: non ci credo, licenziato, vuoi farmi morire? Cioè non lo sapeva, lo apprende da Repubblica. Trema anche la mia voce, direttore, non so niente. Io so che la trattativa è andata male, il licenziamento, direttore. C'è la mano di Confalonieri. Eccolo, l'accusa di Emilio Fede, che già aveva parlato di complotti. C'è la mano di Confalonieri, è lui che ha architettato e portato a segno questa cosa. Silvio è alla partita, ora lo devo chiamare. Adesso chiamo Berlusconi, mi metto in contatto con lui, porcaccia la miseria, c'è la partita. Ieri Milan-Barcellona, con Caporale che dice: ha visto, direttore, poco prima della partita è andata sta notizia, così figurati se trova Berlusconi. Alle 21.05 Fede chiude le comunicazioni con Repubblica. Evidentemente Berlusconi era in altre faccende affaccendato, quali quelle di Milan-Barcellona. Voglio leggere il titolo della Gazzetta dello Sport, il pallottoliere è lì nel cassetto, c'è la partita di ritorno martedì prossimo, 0-0, il Milan è vivo, e questa è già la notizia del titolo della Gazzetta dello Sport. Io devo dire, c'è stata una previsione qui pazza, la devo dire, di Rudy, il tecnico, uno dei tecnici di Radio 24. Quando ha visto il sorteggio ha detto: vinceremo 1-0 a San Siro, gol di Bonera, e 0-0 al Camp Nou. Cioè, pensate, profezia più pazza non ci può essere. Oh, lo 0-0 c'è stato, anche se a campi invertiti. Mettiamo Bonera titolare subito al Camp Nou, fisso, e poi come va? Va. 24 mattino. Allora, siamo qua, sono le 8:22 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Dovevamo avere il sottosegretario agli esteri Staffan De Mistura ospite ai nostri microfoni, ma è successo un imprevisto, e dunque il sottosegretario agli esteri non può essere con noi oggi. Io per questo voglio ringraziare, l'abbiamo chiamato al volo, ma parliamo sempre di questa vicenda dei Marò ovviamente detenuti in India. Il professor Nicolò Carnimeo, professore, buongiorno. Buongiorno, grazie per essere con noi. Professor Carnimeo, che insegna all'Università di Bari, è uno dei massimi esperti anche di, possiamo dire, di pirateria, di queste problematiche che purtroppo ci sono quando le nostre navi vanno in giro, perché i due Marò, ricordiamo, sono accusati di aver ucciso due pescatori indiani in quello che poteva sembrare anche un assalto di pirati alla nave Enrica Alexie in India, nave italiana che attualmente si trova ancora al porto di Kochi. Allora, intanto, professor Carnimeo, la vicenda è questa: perché i nostri soldati sono detenuti ancora lì? Dovrebbero essere giudicati in Italia, come chiede l'Italia, oppure è giusto che l'India se li tenga, diciamo? No, assolutamente, i nostri Marò godono di una cosiddetta immunità funzionale, poiché operavano nell'ambito di una missione ben determinata e che ha supporto nella legge italiana, e quindi l'India non avrebbe nessuna giurisdizione per tenerli ancora lì. Se l'India, se l'alta corte di Kerala, che non credo si sia ancora pronunciata, dovesse appunto decidere per la giurisdizione indiana, compirebbe un vero e proprio illecito internazionale nei confronti dell'Italia. Questo anche se i nostri soldati non erano in missione internazionale, no? Non erano a bordo, erano, diciamo, per virtù di una legge italiana, erano a bordo di una nave italiana, ma non in una missione internazionale, cioè scortavano un armatore privato, diciamolo chiaramente. Allora, cominciamo col dire questo: la lotta alla pirateria è ormai un'emergenza internazionale. Ci sono state 15 risoluzioni da parte del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Molte di queste risoluzioni hanno invitato i paesi a realizzare delle norme antipirateria. Noi lo abbiamo fatto. Sulla base della nostra norma antipirateria, noi abbiamo dato la possibilità, così come ha fatto la Francia, così come ha fatto la Spagna, di imbarcare dei nostri fucilieri del battaglione San Marco a protezione del naviglio nazionale. Sì. Voi sapete bene che le navi sono territorio italiano e quindi quei Marò, anche se non partecipavano ad una missione internazionale come può essere quella della flotta Atalanta, cioè quella delle navi che stazionano lì per fare i corridoi di transito, erano sul territorio italiano però, e stavano svolgendo la loro funzione. Sì, però professore, nel momento in cui, mettiamo il caso, perché poi i fatti sono tutti da accertare, ma mettiamo il caso fossero stati loro a sparare e fossero stati loro ad uccidere questi due pescatori indiani, qualcuno fa notare che vige la legge della bandiera della nave in cui sono avvenute le vittime, e quindi in questo caso la nave batteva bandiera indiana e dunque vigerebbe per questo la legislazione indiana. È un argomento valido? Guardi, in realtà qui possiamo parlare di disquisizioni giuridiche sino a domani. Questa è una questione politica ed è una questione diplomatica. Qui c'entra molto il peso diplomatico dell'Italia, che purtroppo negli ultimi anni si è un po' affievolito. E quindi ovviamente, se invece parliamo della questione giuridica, in realtà la giurisdizione, secondo il diritto internazionale, potrebbe essere reclamata da entrambi i paesi. Mm. Il problema è perché sono sbarcati questi Marò? Cioè, lì è stato creato il gran pasticcio, no? Mi sembra di capire. No, in realtà loro non dovevano entrare nelle acque territoriali indiane. Appunto. Sono stati tratti all'interno con inganno, voi sapete che cosa è successo, nel senso che loro hanno chiamato via radio, hanno chiesto quali navi fossero state. È l'unica che ha risposto, noi non saremmo mai dovuti entrare. Nel momento in cui invece siamo entrati, allora a quel punto la polizia indiana, quando la nave è arrivata nel porto di Kochi, poteva intervenire così come ha fatto. Mm. L'ultima domanda è questa: l'emergenza pirateria, lei dice un'emergenza sicuramente internazionale, quei mari, cioè è presumibile che ci sia stato o un errore nell'identificare la barca sbagliata, oppure è presumibile che potesse essere veramente un attacco di pirateria mascherato su una nave di pescatori? No, guardi, quello che si svolge oggi nel Golfo di Aden, nell'Oceano Indiano, lo ripeto, è una vera e propria guerra marittima. Abbiamo un migliaio di ostaggi, decine di navi sequestrate, la pirateria è divenuta veramente un flagello. Ovviamente nell'operazione antipirateria ci possono anche essere degli errori, ma questi errori li ha compiuti anche la Marina Indiana. Nel 98 loro, senza neanche, perché poi ci sono ovviamente per intervenire le cosiddette regole di ingaggio, ma loro nel 98 hanno colato a picco un peschereccio thailandese, sì. Sono morte 16 persone, uno dopo essere stato 6 giorni in mare alla deriva è stato salvato, e poi lui ha detto siamo stati attaccati da questa unità indiana. Sì. L'India in quel caso non ha neanche chiesto scusa alla Thailandia, pure se c'è stata una risposta ufficiale. E certamente che sì. Cosa vi voglio dire? Che in realtà quando siamo in un teatro di guerra, un teatro nel quale ci sono sequestri, torture, perché poi i nostri marittimi vengono torturati spesso quando sono lì, io voglio ricordare che noi abbiamo i marittimi della Enricoievoli, dei quali bisognerebbe parlare molto di più, che sono in Somalia. Certo, e quindi lei dice in questa situazione di teatro, di guerra vero e proprio, purtroppo possono succedere anche delle tragedie di questo tipo. Io intanto la ringrazio, grazie per essere stato con noi, il professor Nicolò Carnimeo, che è docente a Bari e si occupa di pirateria internazionale da tempo. Dopo la pubblicità noi verremo a cose più italiane, la questione della riforma del mercato del lavoro, la possibile applicazione della nuova normativa su chi? Su tutti? No, sui dipendenti privati, perché, come ha certificato anche il ministro della funzione pubblica Patroni Griffi in una lettera al Messaggero, per i dipendenti pubblici l'eventuale riforma del mercato del lavoro non si deve applicare. E perché? Perché io provocatoriamente l'ho scritto su Twitter, che sono dei panda, i dipendenti pubblici hanno una protezione speciale. Siamo qui allora alle 8:36 minuti. La riforma del mercato del lavoro ha un aspetto particolare, che è quello dell'articolo 18, e se volete un sottoaspetto particolare che ha suscitato qualche polemica all'interno dell'applicazione dell'articolo 18, che è questo: dovesse entrare in vigore una riforma del lavoro, qualsiasi riforma del lavoro, bella o brutta che sia, questo poi è un giudizio che ognuno può dare, si dovrebbe applicare anche per i dipendenti pubblici? All'inizio c'è stato un giallo, poi il Ministero del Lavoro, il Ministro Fornero ha detto di no, ci sono state delle polemiche, io l'ho messa così su Twitter come provocazione, ma perché sono dei panda i dipendenti pubblici, delle specie da proteggere? Perché un'eventuale riforma si deve applicare al sistema dei dipendenti privati e non ai dipendenti pubblici? Il Ministro alla funzione pubblica Patroni Griffi in una lettera al Messaggero 2 giorni fa ha chiarito il perché non si debba applicare ai dipendenti pubblici. Il punto chiave, scrive Filippo Patroni Griffi, è questo: il licenziamento per giustificato motivo o oggettivo o economico non può trovare applicazione nel pubblico, in quanto in questi casi c'è una disciplina ad hoc, che è quella della mobilità, cioè al dipendente pubblico può essere chiesta la mobilità e dopo 3 volte che si rifiuta può essere licenziato. Ne vogliamo discutere con il responsabile del settore pubblico da CGIL, Michele Gentile, che saluto, buongiorno e benvenuto Gentile. Saluto anche Claudio Borghi, che è editorialista del giornale, insegna economia dell'intermediario finanziario alla Cattolica di Milano. Buongiorno e ben ritrovato professor Borghi. Buongiorno. Senta, la definizione panda pubblici, al di là della provocazione, le piace insomma, oppure è una provocazione bella e buona e basta? Borghi. Chiede sì, a me. Sì, sì. Ma guardi, no, il panda è un animale raro, ce ne sono pochi, mentre invece i dipendenti pubblici in Italia ne abbiamo tantissimi, quindi no, non mi piace molto. Detto questo, io sono sempre piuttosto contrario o perplesso di fronte a persone che vengono trattate differentemente sulla base di presupposti che vorrebbero essere ugualitari. Noi siamo un curioso paese, ci sono determinate situazioni per cui si scende in piazza uguale per tutti, i cartelli, la legge e così via, delle altre invece dove oggettivamente ci sono delle situazioni differenti. Attenzione però, questo prima che al gentile venga la vena sul collo, vorrei dire che io al momento sono abbastanza critico con le procedure di, diciamo così, precarizzazione in questa congiuntura che sta portando avanti il governo Monti. Secondo me sta facendo delle politiche sbagliate. Sta facendo le politiche sbagliate sia dal punto di vista delle tasse, vale a dire mettere delle tasse nel momento stesso in cui c'è una recessione, e parimenti sta facendo delle politiche sbagliate il fatto di dover licenziare o quantomeno prevedere licenziamenti per tanta gente in un momento in cui sarebbe necessario assumere. Quindi, per carità, questo vale per il momentaneo, ma sul generale invece, quando una volta finita l'emergenza, una volta sistemate le cose, dovrebbero essere assolutamente considerati tutti i lavoratori allo stesso modo, quindi anche i dipendenti pubblici. Ma infatti questa, la prima domanda che vorrei fare a Gentile è proprio questa, cioè al di là della riforma, poi se vuole dà un giudizio sulla riforma eccetera, anche se la CGIL generale insomma è già stata chiara su cosa ne pensate della riforma del mercato del lavoro, ma qualunque riforma dovesse entrare in vigore, può spiegare a un dipendente privato che la sta ascoltando perché un dipendente pubblico deve essere trattato in una maniera diversa? Ma vorrei innanzitutto correggerla. La legge che riguarda il rapporto di lavoro del pubblico impiego, perché il pubblico impiego è regolato da una legge, che è il decreto 165 del 2001, dice in modo esplicito: lo statuto dei lavoratori si applica nel settore pubblico, punto. Quindi lo statuto dei lavoratori si applica nel pubblico impiego, si applica dall'articolo 1 all'articolo, diciamo, 62, ammesso che esista l'articolo 62, ivi compreso l'articolo 18. Perfetto. Quindi l'articolo 18 si applica, come si applica tutto il resto della legge 300 del 1970, che è lo statuto dei lavoratori. Si applica con alcune peculiarità derivanti dal fatto non che stiamo parlando di lavoratori pubblici, ma del fatto che stiamo parlando di del datore di lavoro, che è la pubblica amministrazione, sì, che è regolata dalla legge della Repubblica Italiana, ivi compreso l'articolo 97 della Costituzione, sì, che stabilisce come opera la pubblica. Questo sì, Gentile, cioè l'articolo 18 si applica, però il ministro ha scritto, io l'ho letto, un'eventuale modifica, cioè quella che va nella direzione di dire nel caso di licenziamento per motivi economici non c'è più il reintegro, per i privati, per i pubblici il ministro dice non potrà essere così. Perfetto, ecco, benissimo. Perché? È un problema solo di chiarimento. L'amministrazione pubblica ha 24.000 posti di lavoro, che sono ministeri, agenzie fiscali, comuni, regioni, province, sanità, università, enti di ricerca, eccetera. Esiste una procedura di legge che dice qualora esistano motivi finanziari, sì, la legge di stabilità introdotta dal governo Berlusconi, dico al mio interlocutore, introdotta dal governo Berlusconi, che dice qualora esistano motivi finanziari che portano a ridurre, diciamo, in gergo si chiamano le dotazioni organiche, cioè sì, il personale si può fare, che dipende da un'amministrazione, questo personale viene dichiarato in esubero, in eccedenza, dopodiché a questo personale gli viene detto qui non c'è più posto per te, sì, c'è un posto da un'altra la mobilità, parte. Insomma, dopodiché il personale ci va e il problema non si pone, perché evidentemente se c'è un esubero da una parte c'è una carenza da un'altra. D'altra parte è stato detto da tante parti, nel sud c'è troppa gente, nel nord non è sempre così, cioè non è sempre detto che se c'è un esubero da una parte c'è una carenza da un'altra. Forse sono anche troppi, diciamo. Non è vero. I dipendenti pubblici italiani sono meno di tutti i dipendenti pubblici in tutti i paesi d'Europa. Sono di meno di tutti quelli che esistono negli altri paesi europei, Germania, Francia, Inghilterra, dappertutto. E chiaramente parliamo di tutti i dipendenti pubblici, dalla polizia agli insegnanti ai dipendenti dei ministeri. Dopodiché che cosa succede? Che se esiste una eccedenza da una parte e una carenza dall'altra, il dipendente pubblico viene chiamato e gli viene c'è la mobilità. Se vuoi continuare a lavorare devi no, ma si fermi qui. Allora, su questo, Borghi, le piace l'idea, che è quella che anche del ministro Patroni Griffi, cioè ce la spiega così: il dipendente pubblico ha la mobilità come opzione, cioè la pubblica amministrazione, lo Stato può dire spostati dipendente pubblico perché qui sei in esubero, questo lo tutela dal fatto di essere appunto licenziato per motivi economici, di avere il reintegro. Va bene così? Sì. No, per carità, questo è stato un passo avanti, vale a dire che fino all'introduzione di questa misura della mobilità, appunto, come correttamente faceva notare Gentile, da parte del governo Berlusconi non c'era nemmeno quello. Non sappiamo se funzioni, non lo so, nessuno, credo che io sappia, abbia mai provato a mobilitare alcuno. Brunetta due giorni fa qui ai microfoni ha detto le leggi in realtà ci sono ma non vengono applicate mai, però io non lo so, io riferisco su non lo so, ma poi magari mi sbaglio, non mi risulta che al momento a far data sia stato mobilitato alcunché, per cui in ogni caso, per carità, potrebbe essere un passo avanti, ma l'assunto, noi dobbiamo partire dal presupposto che ci sono delle regole che in questo momento stanno venendo rifondate per tutti, e quindi non è che dobbiamo tanto vedere cos'è l'attuale, cos'è l'esistente, bisogna vedere come dovrebbe essere. Ora io vi dico, per il lavoro in generale, sempre parlando di tutti, il mio mondo ideale è quando il lavoro deve essere di reciproca soddisfazione, vale a dire è incomprensibile che per come intendo io il lavoro, che io lavoratore posso andarmene in qualsiasi momento se non sono contento, e che il datore di lavoro invece sia obbligato a tenermi per un qualsiasi motivo se non sono contento. Il lavoro dovrebbe essere utile per tutte e due, sia per chi lo dà che per chi lo riceve. È come per dire una casa in affitto, cioè è come dire che se io voglio dare una casa in affitto, la casa in affitto viene data perpetuamente all'affittuario, che poi può anche fare quello che vuole, non paga o cose di questo tipo, me la tratta male, me la rovina, e però io la devo tenere perché ha diritto al suo posto casa. Nessuno darebbe più le case in affitto, motivo per cui molto pochi danno posti di lavoro, perché sanno benissimo quanto è difficile. Cioè, è un matrimonio in eterno. Per quello che riguarda invece il pubblico impiego, l'argomentazione che viene addotta, no, appunto, per giustificare un trattamento differente, è che non si può fare in modo che, semplifico, la politica licenzi una persona. Perché uno dice il dipendente è stato assunto e poi dopo arriva, che ne so, qualcuno di colore diverso, cambia idea, così di questo tipo, la politica non può licenziare una persona, ma allora perché la può assumere? Cioè non è che valgono sempre solo le stesse cose, sappiamo benissimo come sono stati assunti larga parte dei dipendenti pubblici, sono stati assunti per motivi di clientelari e dietro foglie di concorsi. Bella questa definizione, si fermi qui, le foglie di fico di concorso e motivi clientelari, riprendiamo proprio da questo punto, perché è la critica che fanno molti, dopo le informazioni sul traffico. Allora, le 8:49 minuti, vorrei dare spazio a un ascoltatore, Matteo da Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. Che dice lei? Allora, prima di tutto dico, sono d'accordo con Borghi, cioè i Panda sono in via di estinzione, i dipendenti pubblici sono tanti, anzi sono sicuramente troppi. Il fatto che siano meno degli altri paesi europei, tenendo conto tutti, compresi insegnanti, poliziotti, eccetera, mi fa sorridere, perché quelli per la gestione dell'azienda Stato sono infinitamente superiori, cioè sono la metà di quelli degli Stati Uniti, che è una popolazione 5 volte superiore, quindi sono 3 volte tanto. Insomma, la vede come una tutela? Una tutela, perché come già detto, moltissimi sono stati assunti da tutti, destra e sinistra, per motivi clientelari, e moltissimi, o comunque tanti, o qualcuno, diciamo anche qualcuno, è affetto da malcostume. Va bene, no, no, è chiara la sua posizione, Matteo. Mi faccia andare perché sennò il tempo vola da tornare da Michele Gentile. Gentile, le chiedo due cose sintetiche. La prima, Brunetta qualche giorno fa qui a questi microfoni ha detto: le leggi ci sono, ma nel pubblico impiego non vengono mai applicate. Perché? E poi risponda anche alla questione del clientelarismo, come sono stati assunti alcuni dipendenti pubblici. In realtà Brunetta dovrebbe rispondere a se stesso, visto che lui è stato un ministro della Repubblica che ha avuto un grande successo con le sue invettive contro i fannulloni. Dopodiché, se la sua riforma, che è stata dichiarata la panacea di tutti i mali, non è applicata innanzitutto da se stesso e dalla politica che lo riguarda, beh, è un problema suo, non è un problema nostro. Beh, le leggi non è che le deve applicare, la politica fa le leggi ma non le applica. No. Cioè lui dice: la questione della mobilità l'abbiamo fatta, però nessuno la applica, per esempio. Chiedo scusa, la mobilità fu introdotta nel primo decreto del 29 del 93. Sì. I famosi provvedimenti Bassanini furono fatti con circa 18.000 persone che si spostarono da amministrazione ad amministrazione. Quindi non è assolutamente vero una cosa. La questione del licenziamento, dico che dopo tre rifiuti di mobilità c'è la possibilità del licenziamento. Scusa, non è vero che dopo tre rifiuti, non è così. Non è così. Non è così. E il dipendente viene messo in mobilità. Se non c'è la mobilità, o il dipendente rifiuta, dopo due anni va a casa. Appunto. Lui dice questa legge c'è, ma non viene mai, di fatto non viene mai applicata, perché la politica, perché è anche consenso elettorale che la politica perde. Cioè, quale politico lascerebbe a casa dei dipendenti pubblici? Sono voti, Gentile. La politica non vuole perdere il consenso elettorale, quindi non applica le leggi che lei stessa fa. Ma perché bisogna prendersela con il lavoratore pubblico, punto di domanda? Prendiamocela con chi fa le leggi e non le applica. Questa è la prima questione. La seconda questione, ricordo al professore Borghi, esiste un articolo nella Costituzione della Repubblica Italiana che è l'articolo 97, che il professore dovrebbe conoscere molto meglio. Ce lo ricordi a tutti, io a memoria. Nelle pubbliche amministrazioni si entra per concorso, dove esistono i concorsi. Poi che qualcuno mi voglia dire che i concorsi sono i concorsi che noi conosciamo, voglio dire, anche qui rifaccio riferimento alla risposta che vi ho dato prima. Esistono i concorsi, d'altra parte, quando si sta in un'azienda non è che si assume per concorso, molto spesso. Sì, per raccomandazione. Per chiamata diretta, e le chiamate dirette noi sappiamo che cosa sono. Quindi lei dice, però il concorso dovrebbe essere, il ministro Patrone Griffi ha detto, il concorso è la garanzia dell'indipendenza e dell'imparzialità del funzionario pubblico che viene eletto per concorso. Se è truccato, cade tutta la questione dell'impalcatura, dell'imparzialità, eccetera, che è una delle basi per cui non si dovrebbe applicare questa cosa. Quindi, insomma, un cane che si morde la coda. Non so, professor Borghi, abbiamo un minuto per chiudere qui. Non lo so. Per carità, non mi addentro sui concorsi, perché secondo me ogni concorso è diverso dall'altro, cioè quello truccato, sì, cioè quello io dico su come sono stati assunti molti dei dipendenti pubblici, ripeto, penso che sia inutile discutere. Dico solo una cosa velocissimamente: continuiamo a dire tagliare la spesa. No, normalmente quando uno mette più tasse dall'altra parte dice male, bisognerebbe tagliare la spesa. Allora, la spesa pubblica sono molto sinteticamente solo tre voci: interessi sul debito pubblico, e quelli non ci possiamo far niente, pensioni e stipendi della pubblica amministrazione. Quello è. Cioè, se uno dice dobbiamo tagliare la spesa, bisogna tenere presente che chi chiede questo, con una qualche ragione, poi dopo non può scandalizzarsi se dice licenziamo i dipendenti pubblici o riduciamogli lo stipendio, come è successo in altre parti europee, oppure riduciamo le pensioni. È strano, c'è una curiosa dicotomia: gli stessi che dicono bisogna tagliare la spesa pensano che la spesa sia altra. Ci sono piccole cose altre, ma la grande spesa è queste tre voci qua. Se vogliamo ridurre la spesa, su cui bisogna intervenire. Allora, io qui mi devo fermare. Devo dire, tanto il ministro Patrone Griffi è stato chiaro, ha detto non si può applicare per questi e questi motivi. Che ne dica il senatore Ichino del Partito Democratico, che sulla stampa ha detto l'articolo l'articolo 18 agli statali andrebbe applicato, visto che appunto c'è già. Sta di fatto che il registro, lo dico a Gentile, che molte persone, molti ascoltatori ci dicono questa perplessità, cioè un'eventuale riforma perché deve essere applicata agli eventuali dipendenti privati e non a quelli pubblici. Ma comunque torneremo sul tema, grazie a Michele Gentile, responsabile pubblica amministrazione della CGIL, e a Claudio Borghi, docente alla Cattolica, editorialista del Giornale. Ci troviamo domattina.